La versione di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, sempre con Window Change che ci accompagnerà per un po', vedremo come va la ripresa italiana. Sono le 16.30, primi 32 secondi in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24 e andiamo subito al tema del giorno, che ha uno spunto storico di oggi, ma in realtà è rivolto a un interrogativo che riguarda noi. Lo spunto storico riguarda un altro paese, la Gran Bretagna. Ma la domanda sulla quale ci intratterremo con i nostri ospiti e che pongo a tutti voi per darci una risposta telefonando all'800 24 00 24 o con le vostre opinioni al 349 238 6666 è un'altra. Lo spunto qual è? Sono i 63 anni e 9 mesi di Elisabetta II, regina della Gran Bretagna, che oggi batte il record di longevità di ogni regnante britannico, battendo la regina Vittoria. Ma la questione non è questa, non è una trasmissione apologetica di Elisabetta II, dei Windsor, bensì è una domanda che ha a che vedere con una particolarità che a me non sembra proprio secondaria, perché nei suoi quasi 64 anni di regno la regina Elisabetta II non ha mai nominato un governo britannico che non avesse vinto le elezioni. Si trattasse di conservatori come Churchill, si trattasse, o come Eden, si trattasse di laboristi come Attlee e come altri poi nella storia più recente, si trattasse di Tony Blair, e la realtà fino al governo di Cameron che c'è oggi, nella legislatura precedente un governo di coalizione di due partiti alleati però nel voto e poi con le ultime elezioni maggioranza assoluta per i soli conservatori, in 64 anni è capitato al più alla regina Elisabetta di dover nominare altri premier rispetto a quelli che avevano vinto le elezioni, perché nel frattempo il leader del partito laburista o conservatore passava la mano o perché moriva o per causa di forza maggiore. Ma non è mai capitato in questi 64 anni che non si andasse a votare con governi, espressioni di un parlamento o con maggioranze di coalizione diverse da quelle presentate al voto, oppure addirittura con governi tecnici come nella Seconda Repubblica, dai tempi di Amato Ciampi in poi è diventato più regola che eccezione, possiamo dire, in molte legislature del nostro paese. E anche la legislatura attualmente in corso, lo ricordo a tutti, ha avuto un risultato elettorale con una composizione del Parlamento tale che nella realtà abbiamo un premier, come sapete, che non era esattamente quello proposto dal suo partito per governare nel nostro paese, e ci si continua a dire che è meglio così piuttosto che ricorrere alle elezioni. Non ce lo si ripete solo a livello nazionale, ma ce lo si dice anche a Roma con questo inusitato commissariamento che in questa trasmissione la scorsa settimana abbiamo illustrato come, a nostro modestissimo giudizio e di qualche costituzionalista e amministrativista, essere fuori dal nostro ordinamento, perché non commissaria e quindi non prevede scioglimento ed elezione, ma sovraordina a un sindaco che resta e alla sua giunta, per poteri ordinari e non straordinari, il prefetto che ha l'ultima parola, e questo nel nostro ordinamento non c'è. E allora la domanda diventa, pure per me che sono un repubblicano, non un monarchico, e sicuramente poi lo sono diventato anche studiando da piccolo cosa avevano fatto i Savoia in Italia, ma non è mille volte meglio un modello istituzionale con un monarca che ha pochissimi poteri, in realtà consiglia i governi eccetera eccetera, ma con una regola ferrea per cui i governi possono essere solo quelli scelti dagli elettori, piuttosto che un sistema invece che si inventa pur di non ricorrere alla scelta degli elettori, lambiccati ragionamenti, convergenze inedite, transumanze di parlamentari eletti da un partito e che vanno in un altro e che cambiano coalizione e maggioranza. Sapete che anche in questo Parlamento siamo arrivati a 270 e rotti sommando Camera e Senato. Ecco, questa è la domanda che vi faccio, che è una domanda chiaramente: se non sarebbe stato meglio votare tante volte piuttosto che avere governi tecnici o diversi da quelli che gli elettori avevano espresso, e che però è un giudizio su un sistema istituzionale, sulla sua efficienza e sulla sua democraticità, visto che poi la sovranità universale dovrebbe essere la caratteristica del sistema democratico e non un appello di cui partiti e istituzioni, un giudizio di cui diffidano, per così dire, come dire: ah, se andiamo a votare poi sa Dio gli elettori in base a quali ragionamenti emotivi e di pancia fanno le scelte. Meglio invece pensare a ciò che dall'alto si può dirigere per interpretare meglio gli interessi nazionali. Ne siete ancora davvero convinti che questa caratteristica del sistema istituzionale italiano sia ben interpretata nel nome dell'interesse generale da partiti, istituzioni, capi dello Stato, nella diversa interpretazione che i nostri capi dello Stato eletti dal Parlamento e dai grandi elettori regionali hanno avuto di presidenza in presidenza? Sì, e inevitabilmente diventa anche un giudizio su Giorgio Napolitano rispetto a Mattarella, che è un presidente molto più silenzioso e molto meno attivo di Giorgio Napolitano. Me ne rendo conto, però telefonateci e diteci la vostra. Allora, in questa prima parte della trasmissione intanto occupiamoci di capire da cosa dipende questa regola non scritta in realtà del sistema istituzionale britannico. Come sapete, la Costituzione britannica è una Costituzione non scritta, quindi è la somma di usi e tradizioni istituzionali dai tempi della Magna Carta in poi. Della Magna Carta sono 700 anni proprio in questo 2015. Allora, abbiamo con noi per parlarne l'autore di un libro che può essere proprio utile anche a chi è incuriosito di aspetti inediti o poco conosciuti in Italia, proprio di Elisabetta, perché il titolo del libro è Elisabetta II Regina, l'Aracne editrice e appunto l'editore, ed è con noi suo autore che è anche conduttore di una trasmissione su Radio Radicale quotidiana di politica internazionale che si intitola Spazio Transnazionale, e lui è Francesco De Leo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Francesco. Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Allora, questa caratteristica, per così dire, di una regina che certo nomina i governi, ma sempre solo scelti dagli elettori, perché è una regola così ferrea nel sistema britannico? Innanzitutto, risposta a tutto quanto dicevi tu inizialmente, lo chiedi ad un paese che ha Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord adesso, un'epica storia di quasi 1200 anni in cui non ha visto mai assolutismo, liberticidi, fascisti, autarchici, eccetera. Quindi già questa chiediamo una risposta ad una tradizione che è l'essenza della democrazia. Diciamo che ha avuto un episodio, diciamo, molto forte, molto forte. Cui io sono molto legato, cioè quando dopo una crisi decennale, esattamente, iniziata nel 1640 rispetto a Carlo I Stuart e finita con il taglio della testa di Carlo I Stuart, che rivendicava il diritto assoluto a mettere tasse sui suoi cittadini, la risposta del Parlamento, che ereditava la rappresentanza medievale negli usi e nelle tradizioni dei politici del regno, portò alla decapitazione per dire: no, l'assolutismo non fa parte della nostra storia. Ecco, una decapitazione diversa da quella della Rivoluzione Francese con Luigi XVI, ma che ancorava potentemente un principio: no, il potere non può tassare tutto quello che vuole perché ne risponde a noi. Ecco. La mia risposta non è quella ovviamente assolutamente di un costituzionalista, ma di un innamorato della figura di cui ho cercato di narrare la storia sino alla sua inaugurazione, incoronazione, dai suoi primi giorni, e comincerei dicendoti un po' che cos'è, voglio dire, la monarchia che a te piace meno della Repubblica nel Regno Unito. La politica è un confronto tra interessi particolari, lo sappiamo, il Parlamento è proprio l'istituzionalizzazione di questa divisione, di questo conflitto. l'avvicendarsi dei premier, delle maggioranze, delle opposizioni, ovviamente le scelte dei presidenti della Repubblica, eccetera, eccetera. Nel Regno Unito invece la corona rappresenta l'unità nazionale, cioè istituzionalizza tutto quanto è cooperazione, tutto quanto è consenso nella società. Quindi non si diventa re, si nasce e dal primo giorno in cui tu sei educato e cresci per fare il re, per rappresentare questa unità, per non essere di parte. Quello che tu dici è giustissimo, infatti c'è uno dei compiti più importanti che è appunto il monarca, che è quello della lettura del programma dei nuovi governi eletti, che si svolge nella Camera dei Lord, proprio in virtù di quanto dicevi tu, cioè non nella Camera dei Comuni, perché questa è una consuetudine. Nel 1642 Carlo I d'Inghilterra entrò nella Camera dei Comuni, tentò di arrestare 5 deputati, esatto. Lo speaker sfidò apertamente il re, rifiutando proprio di metterlo al corrente di dove si stessero nascondendo i deputati. Da allora il re non entra nella Camera dei Comuni. Quindi questa apertura, questa prima pagina di un nuovo governo che è venuto poco fa per il governo Cameron, che ha compiuto da pochi i suoi primi 100 giorni, avviene appunto nella Camera dei Comuni. E quando si convocano poi i comuni, dopo la cerimonia di lettura appunto del programma che fa la regina, il Black Rod, che è l'ufficiale del Parlamento britannico, batte per 3 volte sul portale di legno della Camera con la sua asta nera e viene poi fatto accedere alla Camera. Si inchina allo speaker e procede a consegnare quello che è l'ordine del monarca atteso dai comuni di apertura dei comuni. Questa chiaramente è tradizione e protocollo. No, ma è la tradizione che esprime il rispetto, per così dire, prioritario dovuto al potere, espressione diretta della scelta sovrana dei cittadini, quella della Camera dei Comuni, anche e in primis dal monarca, che non può entrare in Parlamento se non viene accettato dopo aver bussato alla porta. Un po' diverso da quello che succede a casa nostra, invece, dove tutti siamo appesi a ogni sospiro che esce dal Quirinale come se fosse una specie di dettato di saggezza assoluta. Ma comunque, vabbè. Il discorso che voglio dire, ha letto per esempio, no, qualche tempo fa Elisabetta del nuovo governo Cameron, nel leggere questo la regina può parlarne ovviamente col primo ministro prima, eccetera, però non può entrarci, cioè non può mutarlo, non può modificarlo. Infatti nei rumors, insomma, nei retroscena non scritti, si dice che più volte questa regina, questa figura che ha visto, vorrei citarti solo delle cifre per farti capire la portata della data di oggi, ha visto 6 papi, ha visto 7 arcivescovi di Canterbury, ha visto 11 presidenti degli Stati Uniti, ha visto 12 primi ministri britannici e pare, dicevo, che abbia dovuto ingoiare non pochi rospi in occasione appunto di alcuni programmi che ha dovuto leggere, di cui magari non condivideva determinati passaggi. E però non mette bocca sulla formazione dei governi, sui ministri, sui programmi. Nella storia degli ultimi decenni italiani noi abbiamo avuto non solo governi scelti dal Presidente della Repubblica, che è il responsabile oltretutto delle sue decisioni nel nostro ordinamento, che in teoria interviene, tranne che nelle sue prerogative dirette costituzionali, solo dietro atti controfirmati dal governo, ma abbiamo avuto ministri scelti dai presidenti della Repubblica. Padoan, il ministro attuale dell'economia, non era il ministro della lista portata al Quirinale dall'attuale Presidente del Consiglio. Ma i casi sono innumerevoli, ricordate presidenze come quella di Scalfaro, ricordate, insomma, i casi sono molto numerosi di una responsabilità esercitata con crescente disinvoltura da parte del Quirinale, entrando nella composizione dei governi, nelle scelte dei governi, nei decreti addirittura dei governi, rispetto alla quale secondo me il modello istituzionale della regina non elettiva, che a me non sta simpatica perché non sono monarchico, eppure tuttavia a confronto di quella italiana a me sembra un modello di rigore assoluto, perché così i cittadini sanno che i governi sono responsabili, vanno giudicati e se ne nomina un altro solo se vince le elezioni, e santo in Dio, non mi sembra poco, ecco. Assolutamente, immagino, e come sai benissimo, suo papà Giorgio VI, che è stato di fatto l'ultimo imperatore, perché poi a lei è toccata far diventare insomma un impero, una confederazione di stati, quello che oggi è il Commonwealth, ha appoggiato il primo ministro, il premier laburista, che appunto votò per togliere denaro alla casa reale nel periodo del dopoguerra. Quindi voglio dire, questo per dirti che non no, c'è questo proprio... stai richiamando un'altra questione fondamentale, la dotazione reale, la vota al Parlamento, non come in Italia dove i bilanci di Camera, Senato, Corte Costituzionale, Quirinale, Corte dei Conti, cioè gli organi di preminenza istituzionale, sono superiori addirittura al controllo della Corte dei Conti e il governo non può decidere niente dei soldi, delle retribuzioni e delle dotazioni. Altra cosa che mi fa sembrare l'Italia una monarchia di vecchio regime imperiale al confronto della monarchia britannica, se posso dirla fuori dai denti, perché il principio di rispondere del denaro del contribuente dovrebbe essere l'ABC insieme alla sovranità diretta per una democrazia vera, ma queste sono opinioni mie, non so come la pensi tu, Francesco. Sono d'accordissimo con te. Mi fai dire un'altra cosa, certo, se hai un minuto, sull'importanza del giorno di oggi. Noi parliamo di una persona che in una storia epica di 1200 anni, di 50 sovrani, di decine di dinastie, una donna che vanta in questo momento 125 milioni, immagina, di sudditi nel mondo, proprio nello stesso anno, come dicevi tu, in cui si celebra l'ottavo centenario della Magna Carta, il documento con cui un re inglese pose le basi dello Stato di diritto in qualche maniera e della democrazia. Questa donna supera la regina Vittoria, l'epoca vittoriana, studiata ovviamente in tutto il mondo, in cui molti dicono che lì siano stati gli anni, diciamo, in qualche maniera più felici della storia, appunto, di questo immenso paese. Quindi è una data importante. E anche gli anni che ci hanno dato poi opere, insomma, per i liberali, di quelle di Walter Baggio, grandi premier da Gladstone, Disraeli e così via. Insomma, detto questo, non per fare i filo monarchici, ma lì vedo più ordine e più rigore. Grazie a Francesco De Leo, leggete il suo libro e dopo la pausa dell'informazione stradale, il libro che ho sentito, lo ripeto, Elisabetta II Regina, Aracne Editrice, chiediamo un rappresentante di una forza politica che questi punti li ha sempre sollevati, perché molti di voi mandano gli sms dicendo perché non si va a votare, perché vincerebbe 5 Stelle, e lo chiediamo proprio uno dei 5 Stelle, se non è meglio la Gran Bretagna del sistema italiano dal punto di vista del rispetto della sovranità popolare. A tra poco, strade. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 primi, qui la versione di Oscar. Traiamo spunto dal primato di longevità come sovrana oggi raggiunto da Elisabetta II per una riflessione che riguarda la diversa caratteristica del sistema istituzionale britannico rispetto al nostro. Lì la regina non nomina mai un governo se non è scelto direttamente dagli elettori. Da noi abbiamo un capo dello Stato che per molti versi è molto più irresponsabile rispetto alla regina Elisabetta, si decide la dotazione, quanto spende il Quirinale, nessuno può dire niente e così via, compone governi, nomina ministri, interviene sui decreti, tutte cose che lì sono impossibili, e la domanda è che cosa è meglio? Siamo sicuri che sia meglio questo nostro sistema parlamentare in cui l'opinione degli elettori però viene, per così dire, diffidata dai vertici istituzionali e dai partiti, e non si va a votare ma si va avanti come accade oggi a Roma come comune, ma come accade poi in molte legislature negli ultimi legislature è avvenuto con governi tecnici o governi diversi da quelli scelti dagli elettori. Allora, abbiamo con noi per parlarne un deputato dei 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Giorgio Sorial. Buon pomeriggio, è con noi? Non è collegato, è caduto il collegamento. Mentre ripristinate il collegamento, sentiamo alcuni di voi che hanno chiamato, cominciando con Bruno da Roma. Prego, Bruno. Buonasera. Senta, io volevo dire una cosa. Si fa un po' troppa confusione, no? Non si può mischiare il sindaco di Roma con il Parlamento, con il governo. Sono cose completamente diverse, prima di tutto. Secondo, è inutile continuare a dire andiamo a votare. A votare con che legge? La prima cosa che bisogna fare è fare una legge chiara che consente a un certo punto di stabilire chi ha vinto, chi ha perso, chi governerà, chi no, perché le alleanze in Italia non si possono fare, lo dimostra il fatto che la prima commissione per fare la Costituzione con D'Alema, con cui insieme a Berlusconi esce dalla finisce la commissione entusiasta di quello che era stato fatto, due mesi dopo dici no, questo non vale niente, non serve assolutamente a niente, perché non siamo più d'accordo. La stessa cosa adesso. Quindi che cosa vuol dire? Che bisogna fare una legge che consente a un... la gente deve scegliere. È inutile cominciare a dire che l'Italicum non è democratico, c'è un... alla fine c'è un doppio turno e la gente deve scegliere, punto, in modo che poi chi governa, chi fa l'opposizione si candida a Bruno, chiarissimo quello che dice. Io temo che la storia ci abbia dimostrato, almeno io la penso così, che i partiti si sono presi sempre più ampi margini con leggi elettorali che non erano univoche, cioè univoche nella facoltà di scelta da parte dei elettori dei governi, proprio sapendo che poi potevano acconciarsi ad alleanze inedite, a transumanze in Parlamento dei loro parlamentari. Io credo che siano collegate queste cose, e tant'è vero che invocarono la legge elettorale, come sa, e i partiti iniziano a prendere tempo per non farla, pur di farla durare la legislatura e non andare a votare a quel punto. Allora, è ripristinato il collegamento con Giorgio Soria del 5 Stelle, buon pomeriggio e grazie. Lei che ne dice? Meglio una regina che non nomina governi che non hanno vinto le elezioni, o meglio un sistema di preminenza parlamentare in cui i partiti fanno quello che vogliono, si fanno governi tecnici, i presidenti della Repubblica nominano ministri ed entrano nei decreti del governo, oppure non avendo le facoltà ma prendendo, se no, lei cosa preferisce? La domanda è chiaramente retorica, perché chi conosce il Movimento 5 Stelle sa benissimo come abbiamo difeso uno dei principi fondamentali. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi, e il principio fondamentale è la sovranità appartiene al popolo. Ma la cosa bella è che questo principio non è all'interno del nostro programma, è l'articolo 1 della Costituzione italiana. Semplicemente, se la sovranità appartiene al popolo, allora non si riesce nemmeno ad immaginare perché ci sia un qualcosa che possa in un qualche modo precettare un tale fondamento, ossia il fatto che un Parlamento, come il Parlamento che abbiamo oggi, continui a legiferare nonostante il fatto che la sua elezione sia avvenuta in violazione del rispetto della sovranità popolare. E anche questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dice la sentenza della Corte Costituzionale numero 1/2014, che è la famosa Ammazza Porcellum, e lo dice la sentenza per l'appunto della Cassazione, che poi dà ragione al Movimento 5 Stelle sull'incostituzionalità di questo Parlamento. Allora, un qualsiasi Presidente della Repubblica avrebbe probabilmente in passato sciolto le Camere e garantito ai cittadini italiani di poter svolgere un loro diritto dovere, ossia quello di andare a scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Questo non è successo, e dal 2013 continuiamo ad avere un Parlamento che alla Camera dei Deputati ha circa un terzo dei deputati che in realtà sono frutto di un errore, come dichiarato dalla Corte Costituzionale, che è il premio di maggioranza regalato dal Porcellum. E attraverso questo errore, attraverso questo regalo, c'è un partito che oggi è al governo che, nonostante questi vizi, continua a mal governare il paese e continua a scrivere le regole con cui cerca di rimanere il più possibile sulle poltrone del potere e della legislazione in cui ci troviamo. E questo è un fattore molto importante e molto da comprendere e soprattutto da difendere, perché se è l'articolo 1 della nostra Costituzione e se la sovranità deve appartenere al popolo italiano, oggi come oggi, dove si sente parlare di tutti i popoli, si sentono confronti con tutto quello che sta succedendo anche nel resto del mondo, nel resto dell'Europa, i cittadini italiani dovrebbero difendere, anche attraverso noi che lo facciamo in Parlamento, questo sacrosanto diritto. Però gli italiani, da una parte, nei sondaggi, ma non solo in questa legislatura, tutte le volte che abbiamo avuto esperienze dal 92-94 di governi nati tra Quirinale e Parlamento e non di fronte agli italiani e per scelta degli italiani, sono sembrati molto spesso a maggioranza gradire questa specie di limitazione imposta alla loro facoltà di scelta, come dire no, è meglio preservare la stabilità, meglio... Non pensa che alla fine è entrata anche nella testa degli italiani questa specie di limite che c'è alla loro facoltà di votare? Penso che abbiano utilizzato, e parlo dei partiti che si sono susseguiti in questi parlamenti negli ultimi anni, in questo Parlamento negli ultimi anni, abbiano utilizzato tutte le forze, tutto quello che era a loro disposizione per convincere, per inculcare nella testa dei cittadini italiani, che sì, sono delle persone creative e intelligenti, ma hanno utilizzato tutti i mezzi, che sono i mass media, che sono i giornali, che è tutto quello che era il loro potere. Diciamo la verità, sì, diciamo anche che la stampa non ci crede per prima al fatto che la sovranità popolare sia il fondamento vero di fida degli italiani, sono emotivi, si ragiona con la pancia, i populisti e così via. Però se la sovranità popolare finisce non c'è più democrazia, questo ricordiamocelo che è così, quindi per quello che mi riguarda viva il modello britannico e grazie a chi come 5 Stelle si ricorda di questo. Poi loro vogliono un sistema elettorale che non è il mio di qua di là, ma qui si parla di principi.